Tiene la fricca a farmi cadere le mie mani. Il mio mondo di che si è un mio Agapo, guardami fissa, mi rilassa, ti invidia, mi c'ho l'erba in mano e mi scasso, c'ho troppi pensieri perciò lo faccio, 3 kg un fascio, tanti amici non rinfaccio, non so perché continuo a farlo, chiudendo tante canne, tante porte chiuse che mi hanno fatto quel che sono un pazzo, molti mi odiano e io li ringrazio, altri mi adorano ma mi stanno sul cazzo, sogno di spaccare per dare soddisfazione ai miei familiari, ma non mi va, quindi spero che vengano sbranati da cani, odio il mio paese e lo scrivo, odio questo sistema quindi sono creativo. Faccio io un sistema da Dio, purino col filtro a cartoncino. Mi scasso e spero che mi venga un infarto o qualcos'altro. Basta che sparisco da questo mondo e resuscitare come Lazzaro, però nello spazio, viaggiando nella galassia come quando stai fatto. Quando immagini che tutto si può realizzare, per i risulti che ho fatto brutto, come un pacco chiuso, rimango in silenzio, bevo vodka, bevo tutto. Stenso sul divano, l'erba in mano, trito, chiudo, canne dopo e dopo parto. Quando finisce soffro come un parto. Ricevuto, forte chiaro, stenso sul divano, l'erba in mano, trito chiudo, canne dopo e dopo parto, quando finisce soffro come un parto, ricevuto, forte chiaro, ah, sento sempre la stessa musica, anche io la scrivo, ma mi sa che è più pura, come Maria, creata da madre natura, non c'ho paura, contrario di questi rapper che vogliono fare la faccia dura, tremano dalla paura, scancio troppo cash, il contrario di chi vive a Marrakesh, vista sbadita flash, non faccio un granché, a malapena mi rompe il culo per comprare una baguette, sono povero non ti spiego il perché, continuo a formarmi questo L, continuo a fissare le stelle, continuo a immaginare quelle serate che tu mi dicevi grazie, sono state belle, figurati ora passiamo alla fase, mostrami le tue grazielle, se vuoi ne chiudi un altro di sistema L, fa venire anche le tue amichette vestite per bene, le faccio fumare, saranno delle iene, io un leone, siamo in una giungla circondati da api in cerca di miele, mi fumo la chimica, la tipica, dopo fame chimica. Stenso sul divano, l'erba in mano, trito chiudo canne dopo e dopo parto, quando finisce soffro come un parto, ricevuto, forte chiaro, stenso sul divano, l'erba in mano, trito chiudo canne dopo e dopo parto, quando finisce soffro come un parto, ricevuto, forte chiaro, stenso sul divano, l'erba in mano, trito chiudo canne dopo e dopo parto. Quando finisce soffro come un parto, ricevuto, forte chiaro, stenso sul divano, l'erba in mano, trito chiudo canne dopo e dopo parto, quando finisce soffro come un parto, ricevuto, forte chiaro, forte chiaro.